Le intenzioni programmatiche e le aspirazioni a cui tende questo nostro convegno sono state molto ben interpretate, mi pare, dalle autorità che hanno preso la parola in questo atto di inaugurazione. Posso quindi passare senz'altro al mio compito di relatore di questa sera. Hubert Védier chiudeva la sua giornata terrena nella notte tra il 15 e il 16 luglio 1980, nella propria abitazione a Bonn, aiutato dalle preghiere e dalle formule più tradizionali della raccomandazione dell'anima, che egli stesso precedentemente aveva voluto consegnare a tal fine alla persona pia che lo assisteva. Ancora quel medesimo giorno, la posta mi recapitava la sua ultima lettera, datata due giorni prima, dove con qualche particolare relativo al lascito dei suoi libri destinati a Trento, lasciava intravedere il suo stato d'animo e scriveva: «Il declino delle mie forze progredisce evidentemente, così che io devo fare i conti con una fine improvvisa. Mi sforzo di portare a buon termine la mia croce, non è cosa facile». E aggiungeva quelli che furono gli ultimi saluti agli amici di Trento. Questa lettera, che ancora conservo, mi dà ardimento a prendere la parola in questo momento. Pur consapevole che altri, anche fra coloro che mi stanno ascoltando, potrebbero con ben altra competenza commemorare lo storico del Concilio in questa sessione inaugurale, solo a seguito della loro insistenza e confidando nell'indulgenza dell'uditorio di questa sera, ho accettato questo compito, che cerca di corrispondere a un grande debito di amicizia. Mi propongo di riepilogare anzitutto il quadro cronologico-biografico entro il quale è maturata ad opera di Yedin la storia del Concilio di Trento, per poi tentare una valutazione sintetica di quella che è stata la sua prestazione. Non si può dire che Hubert Védier si sia trovato predestinato in partenza a trattare la storia del Concilio Tridentino. Nato nell'anno 1900 come ultimo dei 10 figli della famiglia del maestro del villaggio, Großfriesen in Schlesia si chiama, che fungeva anche da sagrestano e da capocoro della chiesa parrocchiale. Il giovane Yedin era cresciuto nell'amore allo studio e nell'attenzione viva all'ambiente umano e culturale che lo circondava, fino a inserirsi tra gli aspiranti al sacerdozio della sua diocesi di Breslavia, in un cammino che doveva portare alla cura d'anima. Naturalmente i problemi della riforma protestante non erano marginali nella vita di questa grande diocesi, alla quale allora era incorporata la stessa regione di Berlino e la Pomerania. Ma non aveva ancora un particolare programma il giovane studente di teologia quando accettò la proposta del professor Xaver Seppel per un lavoro di laurea sulla teologia di Giovanni Cocleo, che si concretò poi in una dissertazione dal titolo Des Johannes Cocleus Streitschrift de Libera Theologia, presentata nel 1925. Giovanni Cocleo era il noto controversista antiluterano, a dire il vero più pubblicista che teologo, che aveva chiuso i suoi giorni come canonico di Breslavia nel 1552. Fu occasionata dalle prime difficoltà di inserimento del giovane sacerdote nell'attività diretta di cura d'anime la decisione del vescovo Cardinal Bertram di offrire a Yedin nel 1925 la possibilità di un soggiorno triennale di studio a Roma con un posto di cappellano nel Collegio Teutonico in Camposanto. Qui pareva dapprima che egli dovesse occuparsi della storia della sua diocesi nativa utilizzando il materiale degli archivi vaticani. Solo dopo una riflessione più matura egli si risolse per un tema che in seguito doveva diventare decisivo per il suo accostamento al Concilio Tridentino, cioè la vita e l'opera teologica del cardinale Girolamo Seripando. Il lavoro su Seripando servì come tesi di abilitazione presso l'Università di Breslavia, dove nel 1930 Jedin si inserì per una promettente carriera accademica. Ma la stessa materia che egli andava indagando lo coinvolse in quella grande impresa editoriale che dall'inizio del secolo stava promuovendo la monumentale pubblicazione del Concilium Tridentinum ad opera della società gioresiana, della Gioresgesellschaft. Jedin conobbe ancora i primi iniziatori di quest'opera gigantesca e ricevette impulso soprattutto dal più vivace e attivo di essi, il professor Sebastian Merkle di Würzburg, nel quale egli incontrò un modello ideale di uomo e di studioso. Jedin si vide introdotto presto nel cantiere dell'edizione delle fonti tridentine e prese sulle spalle l'elaborazione di un volume della grande serie, subentrando nel lavoro a Vincent Schweitzer, impossibilitato a proseguire per difetto di vista. Egli divenne così l'autore del secondo volume della serie Tractatus del Concilium Tridentino, con l'edizione critica dei pareri teologici e canonistici elaborati per il Concilio tra il 1545 e il 1563. L'impresa doveva protrarsi per diversi anni, dal 1932 in poi. Ma nel 1933 sopraggiunse il fatto che incise inesorabilmente nella vita e nella carriera accademica del nostro autore: la cancellazione dall'insegnamento universitario dovuta al fatto di essere egli figlio di una madre di razza ebraica, pur buona cattolica e da gran tempo cristiana. L'ingiusta discriminazione lo impegnò ancora di più nella ricerca scientifica. Dal 1933 al 1936 egli fu di nuovo a Roma, stipendiato dalla Società Gioresiana per il volume dei Tractatus e per altri contributi di studio su progetti papali di riforma nel pontificato di Giulio III di Paolo IV. Il rientro in diocesi, con l'incarico di archivista dell'ordinariato e altri compiti ecclesiastici di insegnamento in seminario, si dimostrò presto scomodo e soprattutto rischioso per quel sacerdote non ariano nel clima della Germania nazista. Col fiato sospeso si legge ancora oggi il racconto che Jedin fa del suo espatrio nel novembre 1939, quando egli riuscì quasi per miracolo a sottrarsi alle spire della persecuzione razziale, rifugiandosi di nuovo a Roma presso il Camposanto Teutonico. Nel frattempo, il desiderio di una trattazione moderna e completa della storia del Concilio di Trento si era notevolmente diffuso e consolidato anche in sede romana. Lo si comprese già nel maggio 1938, quando fu presentato al Papa Pio X l'imponente volume dei trattati, che per le difficoltà del momento si era dovuto stampare non in Germania, ma presso la Policlotta Vaticana. Così, un anno più tardi, quando Jedin si presentò al cardinale Giovanni Mercati, esponendogli il suo progetto e chiedendogli il necessario appoggio, ne ebbe immediatamente l'assenso. Anzi, fu esortato a fermarsi subito a Roma per iniziare il lavoro. Nella decisione confluiva anche il pensiero della prossima commemorazione centenaria del Concilio Tridentino, che questa volta non poteva certo riproporsi senza un adeguato contributo scientifico, come invece era accaduto per le celebrazioni centenarie del secolo XIX. La prima mossa ufficiale in tal senso era già partita da Trento. L'arcivescovo Celestino Endrici aveva indetto nel gennaio 1937 le prime consultazioni e nel 1938 comunicava l'iniziativa al Papa e alle congregazioni romane, a una folta serie di vescovi e generali di ordini religiosi, ricevendone ampia risposta di incoraggiamento e di adesione. Nel programma del comitato costituito da Monsignore Endrici figurava anche la pubblicazione di una rivista trimestrale per la raccolta di testi e studi relativi al concilio e per la documentazione delle iniziative del centenario. Nel dicembre 1939, colui che in realtà fu l'anima e il cireneo del comitato per il quarto centenario, il sacerdote trentino Don Giulio De Lucano, ebbe un primo contatto a Roma con un gruppo di studiosi che venivano a formare la base spirituale della rivista, e fra questi si registra fin da allora la presenza attiva di Huber Chietini. La rivista vide la luce nel 1942 sotto la direzione responsabile di Monsignor Pio Paschini con il titolo Il Concilio di Trento, rivista commemorativa del quarto centenario. Purtroppo ebbe vita estremamente difficile per vicissitudini della guerra, riuscendo a pubblicare appena 5 numeri regolari più un grosso fascicolo conclusivo che riporta la cronaca delle celebrazioni tridentine del 1945. Ma chi la prende in mano vi trova ancora oggi non solo alcune collaborazioni dirette a firma Chietini, ma vi riscontra le orme di una sua paternità più ampia su tutta la rivista, che sorregge il valore di insieme. Fin da allora, tra De Lucan e Chietini, si sviluppò un'amicizia fraterna, fatta di grande rispetto, affetto e discrezione. Ad essa si deve quel primo legame di Chietini con l'ambiente di Trento, che doveva trasformarsi in attaccamento incrollabile man mano che lo scorrere degli anni allontanava per l'esule la prospettiva di un ritorno alla patria svesiana. Nel decennio 1939-1949, che vide gli anni della guerra, il crollo del fascismo, l'occupazione tedesca dell'Urbe, la liberazione alleata e le origini della Repubblica in Italia, Chietini fu presente nel Trentino anche per periodi prolungati di studio e di riposo quasi ogni anno, se si eccettua il biennio 1943-45. Il decennio suddetto fu quello che vide la nascita del primo volume della storia del Concilio di Trento. L'attività feconda dello studioso registra nel contempo altri contributi notevolissimi: l'analisi delle fonti usate dal Pallavicino nella sua storia del Concilio, l'edizione e l'illustrazione dei rapporti segreti del vescovo Gualterio di Viterbo nella crisi conciliare del 1542, svariati studi su singoli teologi canonisti dell'epoca, come pure il famoso saggio su Riforma cattolica o Controriforma, comparso anche in edizione italiana, classico punto di riferimento per una disamina dei concetti. Uno studio che egli ricordò sempre con particolare compiacenza e che evidenzia ormai brillantemente la sua statura di grande storico fu quello che egli soleva chiamare tra amici la storia della storia del Concilio di Trento, cioè l'opera storiografica Das Konzil von Trient, ein Überblick über die Forschung seiner Geschichte, pubblicata nel 1948 nelle edizioni di Storia e Letteratura e dedicata al Cardinale Giovanni Mercato. Nel contesto centenario conciliare del 1945, Chietini nell'ambiente romano si comprovò presto come lo studioso più preparato e ricercato in materia, anche per la sua sconfinata disponibilità. Da allora coltivò intensamente il dialogo con i più noti studiosi italiani del settore, come Delio Cantimori, Federico Sciabò, Giorgio Radetti ed altri laici, senza contare gli ecclesiastici che gli furono più vicini, come Monsignor Macarrone, Monsignor Peluca e tutto il gruppo dei fondatori della rivista di storia della Chiesa in Italia. Il primo volume della Geschichte des Conzils von Trient rivelò in pieno la novità dell'impostazione storiografica. Mentre gli storici precedenti si rifanno a Lutero e si accontentano di spiegare perché si giunse tanto tardi al rimedio, Jedi pone la questione radicale, chiedendosi perché proprio doveva esserci un concilio. Questo lo obbliga a risalire molto più indietro e a rifare la storia dell'idea conciliare dalla prima metà del 400 in poi, mettendo in luce la sopravvivenza del conciliarismo e la forza dirompente che al progetto conciliare trasmettevano i problemi non risolti della riforma ecclesiale. Così il volume, dedicato alla lotta per il concilio, compariva nel 1949 con un contenuto densissimo che cronologicamente arrivava al giorno dell'apertura della prima sessione, il 13 dicembre 1545. Ricorderemo come nell'ultimo capitolo egli presenta ai lettori i protagonisti e lo scenario, fotografando al vivo l'ambiente trentino che accoglieva il Trentino, che accoglieva il concilio, in un quadro così plastico e concreto, raccomandabile sempre come modello anche ad ogni storico locale. Il programma dell'autore era allora di far seguire un secondo volume comprendente la storia del primo periodo, l'intermezzo bolognese e la ripresa conciliare degli anni 1551-53. Il terzo volume doveva poi essere dedicato al grande concilio di riforma degli anni 1562-63, al quarto ed ultimo assegnava la trattazione dell'applicazione del concilio e della sua efficacia nella vita della Chiesa. Le cose però non andarono così, né i tempi si uniformarono a quelle che erano allora le previsioni dell'autore. Il volume successivo prolungò l'attesa molto più a lungo del previsto e vide la luce nel 1957. Infatti nel 1949 Jedi si era trasferito nell'Università di Bonn, assumendovi la cattedra di storia della Chiesa medievale e moderna, in quel contesto che lo vide attivissimo fino alla morte. Le nuove obbligazioni accademiche, che egli non prese mai alla leggera, ritardarono necessariamente la maturazione di un'opera nella quale, come egli dichiara, tutto dipende dalla penetrazione interna della materia e dall'attenzione dei molteplici punti di collegamento. Alle difficoltà esterne andavano aggiungendosi anche complicazioni intrinseche, come l'uscita di nuove collezioni di fonti documentarie e il progresso dell'indagine su temi fondamentali della teologia protestante. Dissipando ogni ombra di dubbio, Jedi dichiara di non aver mai rinunciato al compito assunto. La mole del lavoro, tuttavia, e il ritardo subito dall'edizione degli atti del periodo bolognese e del secondo periodo lo convinsero a dedicare il secondo volume tutto al primo periodo tridentino fino alla sua traslazione a Bologna. Bisogna dire che anche in questi anni Jedi non interruppe mai la sua presenza nel mondo degli studiosi italiani. Ebbe discepoli presso l'Università di Bonn, giovani studiosi quali Alberico, Prodi e Ulianici. Continuò la collaborazione a riviste miscellanee commemorative ed enciclopedie, partecipò a dibattiti e convegni con contributi memorabili come quello presentato nel 1955 a Bologna, a Roma al 10° Congresso Internazionale di Scienze Storiche, a Bologna al convegno di storia della Chiesa in Italia e a Venezia per il ricordo di Gasparo Contarini. Quando Jedi licenziava le stampe il suo secondo volume, nessuno sospettava ancora l'imminenza di un nuovo concilio ecumenico. Jedi non apparteneva certo a quel ceto di studiosi che ritenevano superata per sempre l'era dei concili, da quando il Concilio Vaticano I aveva perfezionato il vertice della piramide gerarchica cattolica. Sentendosi ora chiamato d'urgenza a portare un contributo per una più equa conoscenza dell'evento conciliare, compose tra il marzo e l'aprile del 1959 quella breve storia dei concili ecumenici, che in edizione tedesca oltrepassò le 100.000 copie e fu presto tradotta in altre 7 lingue, compreso il giapponese. Col medesimo intento promosse anche quella edizione completa dei decreti dei 20 concili ecumenici che il Centro di Documentazione di Bologna approntò ancora nell'estate del 1960 e fu strumento prezioso per tutti gli operatori del nuovo concilio. Dal 1959 Jedin fu uno degli oratori più ricercati in Europa per un approccio non superficiale alla problematica del nuovo concilio annunciato. Roma, Berlino, Basilea, Lovagna e tanti altri luoghi lo videro presente ad esporre le sue convinzioni sul profondo rinnovamento che l'iniziativa consigliare metteva in moto. Come pochi egli conosceva la carica di energie provvidenziali che si raccolgono nel cuore del concilio. Anche se da storico non pretese mai il ruolo di profeta, come espressamente gli annota in conclusione alla piccola storia. La storia della Chiesa, egli scrive, non è profezia. Essa non si arroga mai di dar consigli a chi governa la Chiesa. Si accontenta se dalle vicende del passato riesce ad affinare lo sguardo per l'attualità presente e per il futuro. All'interno dei lavori del Concilio Vaticano II, Jedin operò dapprima come membro della Commissione Preparatoria per gli Studi e le Scuole, dove non si distinse certo per un ruolo conservativo e filocuriale rispetto alle tendenze ivi dominanti. Nell'ottobre 1962 ebbe anche la nomina di perito conciliare che lo abilitava ad una partecipazione diretta ai lavori dell'Assemblea. Il contributo che egli stesso giudica come il più importante da lui portato allo svolgersi del concilio sta nell'attenzione sollevata sull'ordine procedurale, per cui su proposta del Cardinal Friedrich di Colonia si arrivò allora a un rigetto delle commissioni proposte dalla Curia Romana e a un successivo subentro di commissioni espresse dagli organi dell'Assemblea stessa. Ne conseguì una ristrutturazione intensissima dei lavori, protratta per tutto il primo periodo, col risultato finale di impostare la corsa su un binario nuovo e di vincere la situazione di ristagno in cui il Concilio stava per trovarsi. La conoscenza intima che Jedin aveva dell'organismo conciliare di Trento operò in sinergia in quel momento con il senso giuridico e politico di un esperto della prassi parlamentare quale era Giuseppe Dossetti, venendo ad incidere nel corso del nuovo concilio mentre rifletteva sulla dinamica dei precedenti. Gli accostamenti del nuovo concilio col Tridentino si imponevano anche per circostanze esterne in quegli anni. La ricorrenza del quarto centenario della conclusione del Concilio di Trento nel 1963 vide Jedin attivamente partecipe in più larga misura ancora che nel 1945. A Trento egli diede ispirazione e incremento a quel comitato che nel difficile passaggio dal governo diocesano precedente a quello dell'arcivescovo Gottardi, aveva preso su di sé l'onere della solenne celebrazione centenaria. Così Jedin fu coordinatore e relatore del convegno storico internazionale sul Concilio di Trento e la Riforma Tridentina nel settembre 1963. Un mese dopo la Società Gerenziana tenne a Trento la sua General Versammlung, un fatto assolutamente eccezionale. Questo congresso della massima associazione degli intellettuali cattolici tedeschi, tenuto al di fuori del proprio confine linguistico, per obbedire al desiderio insistente di Yedin e per onorare la grande impresa del Fridentino. Hubert Yedin tenne in quell'occasione un suo celebre intervento sul Concilio di Trento nella prospettiva del XX secolo e partecipò a tutti gli atti di ospitalità, tra i quali rimase celebre il ricevimento serale nella villa di Fontana Santa sopra Trento, offerto con splendidezza e calore dal grande amico trentino di Yedin, dottor Carlo von Lutterotti. Il 3 dicembre di quell'anno, il centenario della conclusione del Concilio, veniva poi solennemente celebrato a Roma, nella sede del Vaticano II, con una commemorazione del Cardinale Urbani e la presenza di una deputazione trentina guidata dall'Arcivescovo Gottardo. Yedin aveva presentato in quei giorni la ricorrenza alla Radio Vaticana. Dal 13 al 15 dicembre 1963 fu ancora con noi a Trento per la conclusione del centenario, presieduta dal Cardinale Urbani in qualità di legato papale. Il Comune di Trento gli conferì in quell'occasione la cittadinanza onoraria e l'arcivescovo Gottardi lo insignì del titolo di canonico ad onore, segno di amicizia che egli accolse con viva cordialità e con l'impegno dichiarato di voler condurre a termine l'opera iniziata. Nella presentazione del volume successivo, il terzo della storia del Concilio, che vedeva la luce nel 1970, Yedin faceva esplicito riferimento all'esperienza conciliare, che era divenuta, come si scrive, apprendimento diretto impareggiabile per lo storico del Concilio, mentre in reciprocità la conoscenza scientifica aveva avuto modo di influire sull'attività del Concilio stesso. Il volume che sviluppa i lavori dell'intermezzo bolognese e della seconda assise tridentina del 1551-52 era per il suo contenuto il più originale e maturo della serie. Il protrarsi del tempo aveva consentito all'autore di potersi giovare delle ultime accessioni di fonti e le utilizzò da par suo, ricostruendo magistralmente la genesi del lavoro teologico sui singoli sacramenti, il condensarsi delle ultime speranze di un concilio di unione e il crollo di questo sogno nella primavera del 1552, come pure le drammatiche tensioni risolte intorno al problema della riforma. L'ultimo decennio della vita di Yedin fu anch'esso caratterizzato da un'operosità instancabile. Uno sguardo all'elenco della sua bibliografia presenta in quegli anni un aumento dal numero 594 al numero 723, con interventi molto assortiti, fra i quali si registrano soprattutto il suo contributo alla realizzazione di quel Handbuch der Kirchengeschichte, che impersonava la sua continua sollecitudine per la storia della Chiesa nella sua globalità. La fedeltà incrollabile alla città di Trento e alla sua crescita culturale si comprovò nella parte avuta da lui per la fondazione dell'Istituto Storico Italo-Germanico e nelle periodiche presenze per l'esercizio del compito di presidenza che egli portò su di sé finché le forze glielo consentirono. A Trento, come noto, egli volle destinata anche la sua biblioteca. Progetto della sua storia del Concilio si era andato gradatamente ridimensionando da quando anche in lui era maturata la convinzione che l'epoca post-tridentina costituiva ormai una fase storica molto diversa, nella quale entrano in azione tanti altri fattori oltre l'eredità del Concilio. Anche così circoscritto, il compito dell'opera ormai pesava come un compito grave e un destino sulle spalle dello studioso che nel novembre 1973 era stato interrotto da un grave crollo di salute, dal quale stentò a recuperarsi. Esprimendo il suo stato d'animo e ricorda la parola di uno studioso svizzero, ci siamo scelti un grande capitolo storico, il quale a sua volta ha scelto e sequestrato noi. Eppure l'ultima parte, uscita in duplice volume nel 1975, si presenta anch'essa con indomito vigore spirituale. Essa presenta con lucide decisioni le sorti del progetto di concilio nell'interstizio da Giulio III a Paolo IV, la genesi di un progetto ancora diverso sotto Pio IV, per poi esporre con la consueta maestria le vicende interne ed esterne del terzo periodo conciliare, il più travagliato e gli insieme più fecondo, soprattutto in vista dell'opera di riforma. A questo punto egli poteva deporre la penna con motivata soddisfazione. Egli poteva veramente compiacersi di aver resistito ad ogni tentazione di scoraggiamento e, riprendendo un pensiero che fin dall'inizio aveva animato i suoi propositi, poteva dirsi, cito, convinto che dalla volontà e dalla forza di sintesi dipende la sopravvivenza della nostra esistenza spirituale e che nessuna istituzione è chiamata di più a combattere per questa esistenza spirituale quanto la Chiesa Cattolica. Chiusa la citazione. Veniamo così condotti da lui stesso ad una valutazione globale del suo lavoro. L'arco cronologico entro il quale è maturata la storia del Concilio di Trento di Chiedini abbraccia ben 35 anni, con una successione di eventi civili ed ecclesiali non meno sorprendente di quelle che furono le diverse stazioni della sua vita. Pur con tutte le vicissitudini attraversate, la trattazione conserva dal primo all'ultimo volume una straordinaria omogeneità e compattezza spirituale. Fin dall'inizio, Iedì fu consapevole che da tempo ormai si imponeva il passaggio da una storiografia divisionistica, divaricata tra la polemica e l'apologia, ad una storiografia realistica, tutta protesa ad una lettura dei fatti. Per uscire dal vicolo cieco dell'alternativa, la situazione era più che matura. Le condizioni non erano più quelle lamentate dallo storico Ranke nel 1836 a proposito della storia del Concilio, per la quale diceva, cito, coloro che avevano i mezzi di affrontarla non lo volevano fare e quelli che avrebbero voluto non lo potevano fare. L'apertura degli archivi vaticani e l'edizione del Concilio in Tridentino avevano radicalmente mutata la situazione, eppure la via da percorrere era ancora lunga e faticosa. Essa caricava sulle spalle dello storico Iedin tutto il peso del compito metodologico che lo stesso Ranke aveva così formulato. Cito ancora, se uno vuole intraprendere una nuova storia del Concilio di Trento, dovrebbe cominciare completamente da capo. Dovrebbe ricostruire il corso dei lavori con le discussioni delle varie congregazioni, dovrebbe esaminare i dispacci degli ambasciatori che furono presenti. Solo allora potrebbe dominare la materia e formarsi un giudizio sopra le due correnti di informazione. Chiude la citazione. Partiamo dunque con l'uso delle fonti. Il lavoro diretto su di esse iniziò per Iedin molto prima di pensare alla stesura della grande monografia storica. Vi si era addentrato già nella ricerca su Semipanto. L'edizione del volume dei Tractatus lo aveva iniziato ad un lavoro filologico esemplare con l'applicazione di tutti quegli accorgimenti che aiutano una lettura adeguata del testo. La ricerca dell'inedito e la passione dell'editore rimasero per lui un'abitudine intramontabile. La sua fatica di storico è continuamente alimentata da nuove scoperte documentarie che aprono l'intelligenza sui fatti e situazioni. L'esposizione che egli fa della vicenda storica, con l'abilità di un narratore dalla vena inesauribile, lascia sempre intravedere e sentire il substrato della base documentale, ma comprova soprattutto l'acutezza sicura con cui l'autore sa leggere le sue fonti. Tra i molti interventi di un dibattito dottrinale e coglie quella parola che dà la chiave all'intero ragionamento e che rivela la portata reale dell'intero dibattito. Vale sempre anche per lui l'idea che il documento da solo non fa storia, ma interessa come tramite al retroterra dei fatti. Analoga capacità ermeneutica si applica alle persone. Yedin è biografo di Steve, portato irresistibilmente a comprendere le motivazioni degli attori della vicenda, penetrando con tutta naturalezza nel mondo interiore dei singoli operatori. Così ad esempio quel Papa Paolo III, che ancora studiosi come Eses avevano esaltato come il gran fautore del Concilio, venne meglio compreso nella complessità dei suoi atteggiamenti e nell'impenetrabilità di quel carattere che Tiziano ritrasse così bene nel suo sguardo. Così la personalità dei legati papali al Concilio, i molti vescovi e teologi, il segretario Massarelli e tanti altri personaggi escono al vivo sulle sonarie e vengono colti come gli uomini che fanno la storia. I trentini possono qui rincontrare i loro principi vescovi, Bernardo Blesio, Cristoforo e Lodovico Maduzzo, scolpiti in profili viventi che egli trae dal molto materiale erudito con mano magistrale. Non manca a Yedin una conoscenza consumata delle correnti ideali di quel secolo, della cultura filosofica, letteraria e artistica dell'umanesimo europeo. Il suo lungo soggiorno in Italia e il continuo scambio di idee con quanti si occupavano dell'evangelismo italiano, del mondo spirituale di Jacopo Contarini e delle varie correnti di riforma in Italia lo rendevano altamente sensibile ad ogni accento spirituale che da qui si riverberava nel Concilio. Si trattava però per lui di discernere molto bene il grado diverso di compenetrazione ideale che si verifica in momenti distinti. Egli mira a comprendere e a descrivere quell'impostazione specifica che veniva ad esprimersi nei dibattiti e nei ragionamenti del Concilio, per formularsi poi nei capitoli dottrinali e negli indirizzi di riforma. A questo fine conveniva misurarsi non tanto alla teologia perenne e sistematica considerata di fuori del tempo, ma occorreva ricorrere a una conoscenza non approssimativa di quelle interpretazioni delle dottrine protestanti che si erano andate esprimendo nell'abbondante letteratura controversistica. Yedin era molto consapevole di una necessità di una cognizione consumata e non dilettantesca di quel mondo spirituale. Così egli riuscì a individuare tutta la rilevanza delle discussioni teologiche di quel periodo quasi ignorato che era l'intermezzo bolognese del Concilio, divenuto tanto importante per il lavoro successivo sui sacramenti. Esplicò il peso concettuale di autori poco eclatanti come il curialista Tommaso Campeggio, che ebbero un peso determinante nell'affermazione di una linea conservatrice di riforma. Scoprì la diversa metodologia praticata nei lavori sulla giustificazione, dove si enucleavano dei problemi da sottoporre ai teologi, a differenza della metodologia adottata nel lavoro sui sacramenti, dove si preferì partire dall'esame di alcuni articoli protestanti per formulare poi la censura. Evidenziò i condizionamenti della dottrina relativa al sacramento della penitenza, così legata alla situazione teorica e pratica di quel tempo. Mostrò come il concetto di tradizione, uscito da un immenso tormento per la terza sessione del Tridentino, porta i connotati di quella situazione, lasciando tuttora aperta la necessità di una interpretazione più adeguata. La stessa dottrina eucaristica sulla presenza reale, definita nell'undecima sessione, viene da lui classificata come il prodotto di una discussione conciliare su cui si stende ancora l'ombra della controversia antiberengariana. Sono alcuni esempi questi che possono bastare a illustrazione della prospettiva storico-intuitiva alla quale Yedin rimane tenacemente ancorato. e lo spessore diverso di certezze dogmatiche che si trova alle spalle degli insegnamenti tridentini. Chi non tiene conto di questo tipo di riflessione non potrà mai comprendere come egli arrivi a dire che, cito, non ogni anatema tridentino copre una definizione infallibile. Del resto questa sentenza l'ho sentita sabato scorso ad una trasmissione della Radio Vaticana preparata dal padre nostro qui presente. Analoghe considerazioni si dovrebbero fare anche per la trattazione del tema riforma. Non suonava troppo bene allora fra i cattolici, in Italia come in Germania, un discorso sulla riforma che si spingesse troppo al di là dell'ambito dell'autoriforma dei membri della Chiesa. Una riforma delle istituzioni e dei criteri di governo della Santa Chiesa Cattolica era considerata piuttosto con diffidenza e classificata di gusto protestante. Una riflessione più consistente, come quella che Congar andava esprimendo nel suo libro Pre et Post Reforme de l'Église, e una coscienza più decisa della natura della Ecclesia sempre riformanda, stava appena sbocciando e non senza contrasti. Iedin anche qui, muovendosi su un piano schiettamente storiografico, accantonò le classificazioni ideologiche per guardare al fenomeno vivo dei progetti e delle iniziative di riforma che emergono dalle fonti. A questo livello, pur con tutta la simpatia per i postulati della riforma cattolica, egli non negò attenzione e comprensione neppure alla corrente conservatrice e alle resistenze del sistema curiale, vedendovi l'espressione di un diritto all'esistente, inteso come legge fisiologica di continuità concreta dell'organismo chiesa. Piedì certo non ignora le teorie storiografiche che chiedono di correggere e ridimensionare la visuale positivistico-pragmatica della storia, integrandola con quegli elementi sociali e dottrinali che consentono un'intima e completa conoscenza dei fatti storici. Egli fu perennemente in dialogo con quanti gli chiedevano, proprio nel campo della storia ecclesiastica, di selezionare la materia esplicitando i giudizi in proporzione dell'attualità odierna e alla visione del nostro tempo. Ma per usare le parole di Alberico, sorprende constatare a più di 40 anni di distanza con quale coerenza Iedin abbia costantemente perseguito il suo programma senza cedimenti né compiacenze apologetiche o erudite. Con la sua fedeltà rigorosa al metodo storico-critico, egli riuscì effettivamente a spostare la ricostruzione storica delle vicende religiose del secolo XVI dal piano ecclesiastico-apologetico al piano storico vero e proprio, a deconfessionalizzare la storia del Concilio di Trento, storicizzando l'intera vicenda, ponendoci a quella distanza spirituale che è necessaria per una comprensione autentica non più deformata dalla emotività o dalla ideologia. Non è cosa da poco nel nostro caso. Come è noto, all'indomani del Concilio, il Papa Pio IV aveva dato integrale approvazione ai suoi decreti, accreditandoli così della sua autorità. Ma con lo stesso decreto di approvazione, la bolla del 30 giugno 1564, riservava alla sua autorità ogni interpretazione autentica dei decreti stessi, affidando poi a un apposito dicastero la congregazione del Concilio, l'interpretazione e l'applicazione di essi. Si è determinata così una lettura dell'opera del Concilio che è strettamente legata all'azione storica della Santa Sede e che è abbastanza selettiva rispetto al tenore dei testi tridentini, pronta invece ad accentuare e a supplire aspetti che la letteralità del dibattito conciliare non aveva espresso. Finché le cose stavano in questi termini, l'alternativa rimaneva obbligata. L'immagine del Concilio di Trento era quella della controriforma. Chi non l'accettava si trovava risospinto nel campo protestante o nell'orbita polemica di Paolo Sarpi. Finalmente nel nostro secolo si è affermato un modo nuovo di considerare le cose, una ricerca della storia del Concilio per quello che è stata in se stessa e per se stessa, una lettura dei suoi decreti così come furono intesi e valutati dai teologi e dai vescovi che cercarono di formularli così in circostanze concrete, con le risorse e i limiti che la situazione imponeva. Non per porsi in contrasto o in appoggio a nessuno, ma per adeguarsi all'obiettività più integrale, a una lettura più schietta dei fatti e dei ragionamenti. La conoscenza dell'evento conciliare trentino poté così compiere il passo decisivo uscendo dalle strettoie della controversia. Iedin poté dichiarare, proprio qui a Trento, nella ricorrenza centenaria del 1963, con la consueta lucidità: il Concilio di Trento oggi non è più un oggetto controverso, da quando le fonti della sua storia sono a disposizione di tutti nell'edizione del Concilio Tridentino. Noi siamo in grado di individuare la sua posizione storica e di esaminare realisticamente e sobriamente come ha risolto i problemi che gli erano assegnati. Non c'è dubbio che sul piano storiografico, cioè in una visione culturale universale che abbracci cattolici e protestanti, credenti e non credenti di ogni nazione, la discussione sul Concilio di Trento e sul suo significato sia molto placata rispetto ai tempi antecedenti e viene oggi affrontata con una serenità nuova. Questo a noi sembra sia il dono più grande che ha accompagnato l'adempiersi del quarto centenario e il merito più illustre dell'opera di Iedin. Appena un cenno dedicheremo in questa sede a quello che è stato anche per Iedin l'orizzonte metastorico e ideale della storia del Concilio di Trento. Iedin non ha complessi di inferiorità nel dichiarare apertamente questa sua precomprensione e nell'applicarla costantemente anche come metro di giudizio in una riflessione in cui si danno la mano la bravura dello storico con la fede del credente e del teologo. Come noto, Iedin è fervido assertore di una storia della Chiesa intesa come disciplina teologica, pur senza negare la capacità di una conoscenza autentica alla storiografia profana. Questo si applica anche al caso del Concilio di Trento. Indagando sulle vicende esteriori del Concilio e cercando di comprenderne lo sviluppo intrinseco, Iedin si propone costantemente di rilevarne, cito, l'importanza per la vita della Chiesa Cattolica, differenziandosi anche dai suoi vecchi maestri, come Sebastian Merkle, che aveva esaltato il ruolo del Concilio di Trento nell'ambito della storia mondiale. Egli individuò il centro magnetico del Concilio nella sua rilevanza ecclesiale. Non c'è dubbio che il Concilio di Trento ha operato sullo sfondo di una coscienza ecclesiologica erompente. L'intero travaglio di quel secolo riguarda la natura della Chiesa. Protestanti e cattolici si affannano intorno ad essa, senza mai afferrarla adeguatamente. Dall'inizio alla fine il Concilio interviene su temi che hanno tutti forte valenza ecclesiale. Facilmente condivisibile è quindi la tendenza a valutarne l'operato secondo i parametri della ecclesiologia. Qui tuttavia si dovrebbe esprimere sul conto di Iedin una discussione più articolata, a mio avviso, poiché ovviamente egli non può prendere quale metro di giudizio l'ecclesiologia del Concilio di Trento, che non è sistematica, ma rimane spesso implicita e latente nelle sue asserzioni. Basti pensare allo sforzo con cui proprio da parte papale si cercò di tenere fuori dal campo ogni discussione sul rapporto fra il papato e l'episcopato, né si può attribuire ai piedi la concezione ecclesiologica belardiniana, la cui contingenza egli caratterizzò molto bene nel suo famoso intervento al decimo congresso internazionale di scienze storiche nel 1955. La ecclesiologia perennis, che sta davanti al suo sguardo, incorpora le acquisizioni del Concilio Vaticano I e il profilo che stava emergendo dal Vaticano II. Ma occorrerebbe qui accertare fino a che punto si tratti di una dottrina solidificata in formule e fin dove essa invece si nutra di una forte aspirazione alla verità piena. Con Ratzinger egli ammette che il problema della Chiesa è decisamente condeterminato dal cammino storico che essa ha assunto attraverso i secoli. È assertore dunque di una ecclesiologia tuttora aperta e in via di sviluppo, per cui nessuno possiede oggi il metro definitivo per giudicare perentoriamente la realtà ecclesiale di una determinata epoca. Cito ancora: ogni epoca, il dice, della Chiesa sta immediatamente di fronte a Dio. Noi uomini del XX secolo non dobbiamo illuderci di avere l'unico e definitivo criterio per giudicare il passato della Chiesa e non possiamo lasciarci portare a sedere il giudizio sopra di essa. Chiusa la parentesi. E tuttavia, egli non si lascia ridurre a un relativismo radicale. Dal livello metastorico della fede e della speculazione teologica del nostro tempo, anche qui in riferimento più diretto agli scritti di Ratzinger degli anni 1962-1970. Egli recupera alcuni parametri dogmatici fermi che esplicitamente confessa e dichiara. Essi si riconoscono nell'insegnamento del Concilio Vaticano II, che a ogni costo tiene uniti insieme nella Chiesa libertà e autorità, cattolicità e apostolicità, autorità episcopale e ministero decreto. Possiamo così passare ad un'ultima considerazione, quella che vorrebbe sondare alquanto la recezione del pensiero di Lenin all'epoca nostra attuale, segnata dal ventennio di edizione dell'ultimo volume della storia del Concilio di Trento e dal quindicennio della conclusione del suo pellegrinaggio terreno. Un argomento che qui si può solo proporre, non certo sviluppare, sul quale probabilmente l'attenzione e il dibattito dei partecipanti a questo convegno non mancherà di portare un ulteriore contributo. Parlando di recezione, dovremmo cominciare proprio con lui, Hubert Lieddin, dei suoi ultimi anni, poiché egli stesso ammetteva e la sua posizione era stata per molti anni innovativa, mentre invece negli anni più caldi del dopo concilio si era andata spostando piuttosto nel campo dei conservatori. L'attenta osservazione con cui egli seguì i fenomeni del cattolicesimo olandese e i dibattiti che fecero da sfondo al sinodo della Chiesa germanica accesero fortemente la sua preoccupazione, fissandolo sempre più sull'interrogativo se la mancante chiarezza teologica, la theologische Unklarheit, che caratterizza così largamente la situazione dei nostri giorni, non stesse per condurci ad una nuova Kirchenspaltung, a una nuova catastrofe ecclesiale peggiore di quella del secolo XVI. A parte il fatto che la previsione catastrofica, per grazia di Dio, non si è fino ad oggi avverata, il tema della nostra theologische Unklarheit e di quelle che sono anche le potenzialità positive della ricerca teologica odierna dovrà essere molto più approfondita ai nostri giorni, evitando ogni tentazione emotiva. Riguardo a Lieddin, in ogni caso, converrà rimanere ancorati a quella impostazione metodologica e a quel complesso di valori che si sono oggettivati nella sua opera storiografica. Ad essi egli aderì irrefragabilmente fino alla fine. E chi lo ha conosciuto di persona potrebbe immaginare facilmente quale sarebbe stata la sua reazione a chi avesse sollevato dei dubbi in proposito. Un altro interrogativo circa la recezione effettiva del pensiero e dell'opera di Yedin riguarda invece l'estensione più generale di quel modo di considerare il Concilio di Trento che qui abbiamo cercato di descrivere. È troppo facile supporla come cosa scontata. Ogni qualvolta si tende a identificare in positivo o in negativo il Concilio di Trento con l'opera che fu invece della Controriforma, ci riportiamo all'indietro di quella sua realizzazione storiografica. La differenziazione fra quelli che furono i termini e i modi e i limiti dell'opera conciliare e per un altro verso invece le accentuazioni selettive, le aggiunte, i criteri adottati dalla successiva applicazione dovrebbero portare un miglior contributo di sobrietà e una visione più realistica dei problemi e dello stato d'animo entro il quale operò il Concilio di Trento. Una considerazione particolare, infine, merita l'eredità spirituale di Yedin nei suoi riflessi col dialogo ecumenico e con i problemi connessi alla cosiddetta irreformabilità dei decreti tridentini. Yedin, di fronte agli interrogativi del ecumenismo, consiglia il ricorso a un'intelligenza storica e non ideologica degli orientamenti di quel secolo. La Chiesa del secolo XVI aveva i suoi problemi specifici e li risolse a modo suo, con una risposta alla frattura ecclesiale che era adeguata a quei tempi e condizionata ad essi. Zeitgemäß, zeitbedingt, dice e ripete. In quel momento fu sollecita di indicare i punti che ci dividevano piuttosto che quelli in cui stiamo insieme. Non c'è motivo di fare addebito al Concilio di Trento per questo atteggiamento, ma non è detto che tale atteggiamento debba essere il nostro, al punto da rifiutarci al desiderio di unità. Yedin si lasciò porre più e più volte l'interrogativo se i decreti dogmatici tridentini siano passibili di revisione e di rettifica. La sua risposta è costante. Come espressione solenne della fede della Chiesa Cattolica, le condanne dottrinali pronunziate a Trento sono irreformabili. Però il Concilio si limitò alla condanna delle eresie e i testi di riferimento sono non tanto i capitoli dottrinali, ma i canones, la cui estensione non va dilatata. Il Concilio non estese il suo esame al patrimonio comune di fede dei cristiani. Così il suo insegnamento rimase inevitabilmente parziale. Oggi la situazione è diversa. Un recupero di tanti aspetti della dottrina cristiana, rimasti per troppo tempo ignorati, è divenuto possibile e vantaggioso. Si può parlare di una duplice complementarietà, cioè di un completamento del dogma tridentino mediante l'esplicitazione di altri aspetti della dottrina che allora non furono messi in evidenza e mediante la collocazione di quelle medesime verità in un contesto più ampio che ne faccia maggiormente risaltare il significato profondo. La formula con cui Yedin suole riassumere questo suo pensiero suona così. I decreti tridentini non sono bisognosi di revisione, ma capaci di integrazione. Nicht revisionsbedürftig, sondern ergänzungsfähig. Yedin non va oltre questo limite molto chiaro. Ai nostri giorni qualcuno potrebbe ancora provare a chiedersi, almeno come esercitazione mentale, fino a che punto possano anche considerarsi bisognosi di integrazione e capaci di revisione. ma con questo dobbiamo conoscere e riconoscere che ci portiamo oltre i termini insegnati dal nostro autore, che, tanto per citare un esempio, non condivideva l'ottimismo di Hans Kuhn sulla soluzione del problema della giustificazione, pur constatando che le distanze teologiche si sono molto accorciate. Nel 1969 usciva in Germania un libro che riporta una serie di interventi alla radio bavarese ad opera di un gruppo di esperti che scelsero il titolo provocatorio Abschied von Trient, cioè congedo da Trento. Jedin lo conobbe, come del resto ebbe in attenzione tutta la pubblicistica uscita prima e dopo di allora sull'argomento, ma non trovò di doversi stracciare le vesti. Gli autori, tra i quali figurano nomi illustri come Karl Rahner, Karl Lehmann, Heinrich Fries ed altri, non fanno altro che applicare la diagnosi della migliore teologia odierna ai vari settori della teologia fondamentale e dogmatica, delle scienze bibliche, della morale, della pastorale e della storia ecclesiastica. Ognuna evidenzia quale distacco del nostro secolo, quali orizzonti e quali responsabilità nuove si ripropongono ai nostri giorni. A questo proposito, l'atteggiamento di Jedi si esprime senza equivoci e vorremmo qui richiamarlo al vivo ancora una volta, citando la parola conclusiva che egli pone nell'ultima pagina della sua storia del Concilio. Il Concilio Vaticano II, egli dice, ha aperto una pagina nuova nella storia della Chiesa. Nella teologia, come nel diritto canonico, molti elementi sono in via di sviluppo. Istanze rimaste inadempiute a Trento si sono nel frattempo realizzate. Competenze e responsabilità dei vescovi, allora tanto dibattute, si sono ora consolidate in una misura che a Trento nessuno avrebbe immaginato. E tuttavia questo è accaduto senza mortificare l'ufficio del successore di Pietro. Si lotta per una comprensione più adeguata. Ecco, il testo citato offre anche alla nostra considerazione odierna un contributo conclusivo. Esso indica chiaramente in quale direzione sia da ricercarsi un'interpretazione valida e significativa dell'opera di Coubertin e nel contempo motiva una memoria che rimane anche a Trento perennemente cara e preziosa. Grazie.